Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchessi, questa è la prima edizione di Italia in controluce. Oggi è il 3 marzo. Il 14 marzo 1981 moriva a Milano Paolo Grassi. A ricordare colui che insieme a Giorgio Strehler fondò il Piccolo Teatro di Milano e la figlia Francesca Grassi, intervistata da Adriana Fracchia per Italia in controluce. Ma chi ha fondato il Piccolo Teatro? Fra pochi giorni saranno 30 anni dalla morte di Paolo Grassi, l'uomo che appunto insieme a Giorgio Strehler ha dato vita a questa grandissima realtà del teatro, non solo italiano ma europeo ed internazionale. La sua voce viene portata ancora avanti dalla figlia Francesca Grassi, che ha dato vita ad una fondazione molto importante, la Fondazione Paolo Grassi, la voce della cultura. Ma chi era Paolo Grassi? Lo chiediamo proprio a Francesca Grassi. Paolo Grassi, un giovane caparbio, uno che credeva già a 20 anni di essere il primo, il superiore, quello che sapeva fare tutto, ma era cosciente di questa cosa, talmente fino in fondo che ha sempre rischiato e ha sempre messo avanti a tutto questa sua convinzione, che è stata la convinzione che comunque l'ha guidato fino alla fine dei suoi giorni. E per questa sua convinzione ha osato e ha chiesto nel 47, quando si sono incontrati appunto con Strehler e in questa piccola sala del Broletto, che il Comune di Milano potesse aiutare questi due giovani con il loro sogno per costituire il primo teatro stabile come ente pubblico in Italia. Se non ci fosse stato un uomo come Greppi, questi due ragazzi giovani, pieni di speranze, di grande voglia e di energia, non avrebbero sicuramente potuto portare avanti questo grande progetto. Ecco, tra le testimonianze preziosissime custodite dalla Fondazione Grassi c'è proprio la radioconferenza attraverso la quale il sindaco di Milano Greppi, a quell'epoca, parlò della nascita del Piccolo Teatro di Milano. Non si tratta più di un preannunzio soltanto, è ormai una presentazione ai milanesi e ai non milanesi, si intende, perché questo teatro, che vive i giorni appassionati della vigilia, e si prepara ad aprire le porte al pubblico e a sollevare il sipario sul primo atto del suo repertorio, è piccolo ma ambizioso. Vuole essere un esempio, un modello, un pioniere, insomma, e affretta, proprio come tutte le iniziative che dopo avere lungamente sognato vedono vicina finalmente la loro realizzazione. Teatro Municipale del Broletto, Piccolo Teatro della città di Milano. Non passerà che qualche settimana e tra gli altri manifesti ordinatamente allineati sui muri della città ad annunciare i molteplici e svariati spettacoli vedrete anche questa testata che avrà il contrassegno dello stemma comunale come la scala. Un confronto temerario. E perché? Forse che non si possano fare cose belle e avvincenti anche col teatro di prosa. Tutte le iniziative contano per le loro ispirazioni e per la fede che le sostiene e per il senso di responsabilità che le sorveglia. Questo documento ci è stato dato dalla famiglia Greppi, dalla Fondazione Greppi direttamente, perché è un documento privato del loro archivio. Questi documenti che noi abbiamo, che leggiamo, sono tutti documenti che vengono da uno dei tanti progetti che noi come Fondazione Paolo Grassi, la Voce della Cultura, portiamo avanti in questo lavoro, che sono le catalogazioni a tema. Queste catalogazioni servono per ritrovare il pensiero, la parola di Paolo Grassi e dei suoi collaboratori, che comunque hanno tenuto forte questo desiderio di fare cultura, perché la cultura era comunque vita, nutrimento. Il teatro era nutrimento e come lo era allora, secondo me lo è anche oggi. Tra le altre testimonianze importanti che Francesca Grassi ci ha portato, anche questa lettera agli editori Rose e Ballo, in cui un Paolo Grassi giovanissimo già dimostra di avere le idee molto chiare su come dare vita a una collana di teatro molto importante. Questa è stata un'altra lettura che abbiamo fatto appunto a Milano con la Fondazione Mondadori in collaborazione, si intitolava appunto Rose e Ballo. Rose e Ballo era una casa editrice in cui papà diresse due collane di teatro, teatro moderno e teatro, che si intendeva teatro classico. In 4 anni ha pubblicato 47 volumi di teatro. Carissimi amici, nonché editori Rosa e Ballo, La prima cosa che voi farete leggendo questa lettera è una crassa e opulenta risata alle mie spalle, in nome e in tradizione di quella elegante aristocratica ironia che contraddistingue i vostri atteggiamenti particolari. Io vi invito, viceversa, a prendere piuttosto sul serio quanto modestamente sto per dirvi. Tutte cose del resto a voi perfettamente note, ma che io mi permetto sottolineare nell'interesse della casa, vostro, mio, e della collana teatro che particolarmente mi sta a cuore. Ah, cominciamo dall'organizzazione. Perché la collana teatro la amo veramente e vorrei che avesse una vita sicura, serena, duratura e tranquilla. Dobbiamo ricordare che Paolo Grassi è stato anche sovrintendente della Scala e poi presidente della RAI. Assolutamente sì, la Scala è stata un'esperienza secondo me meravigliosa che lui ha amato molto e ha vissuto molto bene. E ha cominciato nel febbraio del 72 quando ha preso il testimone da Ghiringhelli. È stato appunto 5 anni e poi è andato alla RAI. Peraltro non voglio dimenticare che nei nostri progetti c'è questa mostra che faremo a settembre, Il Gran Sole, Carico d'Amore, l'opera che papà commissionò a Luigi Nono, compositore che è morto purtroppo 21 anni fa e che si svolse in prima mondiale il 5 aprile 75 al Teatro Lirico per la Scala. La RAI è stata un'esperienza molto pesante, ma in questi 3 anni, nonostante tutto, è riuscito a lasciare un segno importante. La costituzione della Rete 3 e poi i grandi film, Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, Padre Padrone, Fratelli Taviani, Prova d'orchestra, Fellini. Dovunque lui sia andato ha lasciato una traccia. Italia in controluce, prima edizione, termina qui. Cercate il blog e i contenuti audio del programma su radio24.it. Cercateci su Facebook, Twitter, attraverso la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna oggi alle 13.30 per la seconda edizione.